9 in punto. Buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a Gianfranco Fabi, benvenuti a 9 in punto. Oggi, come annunciato, parliamo di nuovi stili di vita, di nuovi consumi, di una realtà, di come ci si adatta in fondo a una realtà di crisi economica che vede un po' diminuire non solo i redditi ma diminuire anche le aspettative, un po' la fiducia verso il futuro, il rischio di vedere poi in futuro ancora maggiori difficoltà, che porta un po' a risparmiare di più, a spendere di meno, a spendere meglio, a scegliere magari diversamente i propri modelli di consumo, magari anche un po' emotivamente, magari senza riflettere troppo sulle conseguenze. Consumando di meno, in pratica si rischia anche di aggravare una crisi economica di una società che indubbiamente è basata sui consumi e quindi sulla produzione, quindi sui posti di lavoro. Ma ecco, consumare di più per fare un bene sociale forse è qualcosa che riesce difficile da interpretare, da comprendere. E allora guardiamo un po' all'interno della nostra realtà sociale, vediamo come sta cambiando la nostra società, come stanno cambiando i nostri valori di fondo, a cui in fondo colleghiamo anche i nostri modelli di spesa, i modelli di crearsi appunto degli status symbol, una macchina più grande, una macchina più bella, piuttosto che un appartamento in un certo posto piuttosto che in un altro, ammesso di avere la possibilità di scelta. Ecco, su questo, di questo parleremo con i nostri ospiti. Vi invitiamo a telefonare se volete intervenire, a fare delle domande all'800 24 00 24. Per i messaggi SMS anche oggi abbiamo qualche problema, comunque il numero è 349 238 6666. C'è qualche problema di emergenza elettrica che abbiamo superato così come ieri, ma che crea ancora qualche piccolo disservizio. Io saluto alcuni ospiti che sono già collegati con noi, anzi Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, è qui in studio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Gianfranco e a tutti quanti. Giancarlo Rovati, direttore del Dipartimento di Sociologia della Cattolica, buongiorno Rovati. Buongiorno Fabi. E Anna Zino, l'autrice del libro Nuovi stili di consumo in tempi di crisi, insegna psicologia del marketing all'Università di Pavia. Buongiorno dottoressa Zinola. Buongiorno. Allora Giancarlo Rovati, comincerei da lei. Guardando un po' la società nel suo complesso, ci sono alcuni elementi anche strutturali che stanno cambiando da alcuni anni, che stanno un po' modificando questa nostra società italiana? Uno di questi elementi per esempio è, si dice, il ceto medio non c'è più, si allarga la fascia dei super ricchi, beati loro, ma si allarga anche la fascia di chi forse non è povero però vive a livelli di poco più di sussistenza, che riesca un po' a faticare ad arrivare alla fine del mese. Non si parla forse più, come si parlava negli anni scorsi, di arrivare alla terza settimana, però la realtà è un po' questa, di difficoltà, di necessità di ridurre appunto i propri consumi, di ridurre un po' il proprio livello di vita. Ecco, questa fotografia certamente molto generale, generalista della realtà italiana, che corrispondenza ha nella realtà sociale? Giancarlo Rovati. Io credo che sia utile, quando parliamo di impoverimento degli italiani, però mettere qualche paletto, non è per sfuggire alla domanda ma per inquadrarla. Se noi guardiamo alla condizione degli italiani in povertà, così come la calcola l'Istat, noi stiamo parlando dell'11,1% delle famiglie. Non sono poche, perché sono 8 milioni di persone nel 2011, e tuttavia questo dato resta stabile nel corso degli anni, degli ultimi 10 anni. Cosa vuol dire essere poveri? Vuol dire praticamente avere una spesa per una famiglia di due componenti di circa 1000 euro al mese. Questa è una soglia che dobbiamo tenere presente quando parliamo di povertà. Quando parliamo di condizioni di vita generali del paese, in genere si guardano a delle misure medie. Per esempio, le famiglie degli italiani nel 2011 hanno speso mediamente circa 2.500 euro al mese. Questa spesa però è molto differente. Per esempio, ci sono un 50% di italiani, di famiglie italiane che non va oltre i 2.000 euro e l'altra metà che va ben oltre questo. E l'altro elemento che terrei presente dal punto di vista strutturale è la distribuzione territoriale da un lato. I dati sui consumi ci dicono che la differenza nella spesa media delle famiglie che risiedono in Lombardia e quelle che risiedono in Sicilia è di 1.400 euro, cioè in Lombardia si spende 1.400 euro in più. Qui c'è anche un fattore non solo di prosperità e di reddito, ma c'è anche un po' un fattore di differenza nei costi della vita nelle diverse regioni. Però questo è un po' un quadro. Certo, se dopo guardiamo anche a quanto detiene di reddito il 10% più povero e il 10% più ricco, vediamo che c'è una differenza di 1 a 5. E quindi abbiamo anche un problema di aumento delle disparità, delle sperequazioni tra i territori nord e sud, ma anche diciamo tra le categorie economiche. Ed è qui che si inserisce il discorso sul cosiddetto ceto medio, che forse dovremmo usare al plurale, ma in ogni caso è la pancia per dimensioni più grande del nostro paese. Ecco, una pancia che sta appunto circa il 60% dei cittadini. Ecco, ma è una realtà, una dimensione che sta diminuendo, spostandosi verso delle fasce più basse, oppure è una realtà che magari modificata nelle proprie prospettive, nelle proprie dimensioni come realtà territoriale, però rimane più o meno stabile come diciamo come dimensioni? Allora, dal punto di vista delle dimensioni resta stabile e dal punto di vista diciamo del tenore di vita, che anche qui si hanno dei cambiamenti. In fondo la povertà resta stabile perché resta stabile o addirittura tendenzialmente in diminuzione la spesa di quelli che possono spendere un po' di più, e tra questi c'è una quota di ceto medio superiore che tende a comprimere i suoi consumi, non perché è in difficoltà, ma perché tiene una posizione attendista, di maggior attenzione alle spese e quindi maggior risparmio. Poi c'è una parte del ceto medio cosiddetto inferiore che invece ha delle vere difficoltà. E da chi è formato? Beh, principalmente da lavoratori dipendenti con qualifica bassa, titolo di istruzione basso, e questo è per così dire in condizioni di difficoltà oggettive. Ma ci aggiungerei un altro elemento: non conta solo le condizioni economiche oggettive, contano anche le aspettative, e da questo punto di vista, quando si parla di crisi del ceto medio, dobbiamo tener conto proprio di questo gap che si è accentuato nell'ultimo decennio tra aspettative di miglioramento e realtà, che è per la maggioranza di stabilità, ma per una quota anche non piccola di necessità di ridurre le proprie condizioni di vita e quindi peggiorare le proprie aspettative. Questo sentimento di frustrazione è all'origine di un disagio e anche poi, se vogliamo, di conseguenze politiche importanti. Ecco, grazie Giancarlo Rovati. Mi sembra importante sottolineare questo elemento. C'è indubbiamente una diminuzione, anche se limitata, del reddito complessivo, ma quello che influisce di più sui consumi è il fatto di avere un'attesa magari di avere delle maggiori difficoltà in futuro e quindi di risparmiare adesso e quindi di magari autoridursi il proprio livello di vita per cercare di avere forse un po' più di garanzia garanzie per il futuro. Vorrei chiedere a Maurizio Tortorella se la percezione proprio di questo, di questa scelta, di questa quella che già Keynes chiamava la preferenza per la liquidità, senza entrare nel tecnicismo economico, però di questa scelta di spendere un po' meno per sentirsi un po' più sicuri sul futuro, è qualcosa che si vede nella società italiana. Ma direi che si percepisce chiaramente, e il popolo italiano è sempre stato un popolo di grandi risparmiatori. Il risparmio ha chiaramente un'aspettativa sul futuro, è qualcosa che serve per il domani, e questo vale in momenti di affluenza, come si dice, così come in momenti di crisi. La logica è esattamente la stessa, anche se le prospettive sono ribaltate. E in questo momento mi pare che gli italiani stiano, loro malgrado in certi casi, traendo dalla crisi un'opportunità, che è quella di consumare meglio fondamentalmente, consumare diversamente sicuramente. Questo vale per esempio per i consumi alimentari. O mi sono fatto dare dall'Istat gli ultimi dati. Negli alimentari c'è un calo medio generale, diffuso, ma riguarda soprattutto alcuni settori, e sono i settori più, diciamo così, meno fondamentali, meno importanti. Le caramelle sono calate del 6%, i liquori del 3%, le bibite gassate del 7%. Certo, poi ci sono cali anche importanti che riguardano invece alimentazioni importanti come la carne, che è calata del 6%, e qui sicuramente pesa il prezzo, ma altri prodotti come farina, olio, uova, pane e pasta sono aumentati mediamente dal 3% fino all'8%. All'indispensabile non si rinuncia, forse a livello alimentare si rinuncia al superfluo. Chiedere ad Anna Zino, la ricordo, autrice del libro Nuovi stili di consumo in tempi di crisi, i libri di Markup del gruppo del Sole 24 Ore. Ecco, questo cambiamento di stili di consumo è qualcosa che si vede già concretamente proprio nella realtà in cui le imprese devono tener conto nelle loro politiche di marketing, nelle loro politiche di presentazione dei prodotti e anche di scelta di prodotti da presentare sul mercato. Anna Zinola. Beh sì, sicuramente. Io introdurrei un elemento. Si consuma meno anche perché ci si rese conto che si ha meno bisogno. Cioè probabilmente si rinuncia all'ennesimo paio di scarpe perché si hanno già tante scarpe e quel denaro viene accantonato in vista del futuro o indirizzato verso altri tipi di consumo, perché è vero che ci sono dei consumi che calano, ma ce ne sono anche altri che tengono o che crescono. Basta pensare a tutta l'area dell'elettronica di consumo. Quindi questo è un elemento da sottolineare. Ecco, c'è anche un altro settore oltre all'elettronica di consumo, i telefonini, che ha visto se non crescere a grandi cifre, però mantenersi anche stabile e in leggera crescita nei consumi in questo periodo di crisi, ed è quello dei cosmetici. Abbiamo in linea Fabio Rossello, presidente di Unipro. Buongiorno Rossello. Buongiorno a voi, seguivo con molta attenzione. Com'è? Ti seguivo con molta attenzione. La ringrazio. Mi conferma il fatto che nel settore dei cosmetici c'è una certa aciclicità, come dicono i tecnici, cioè è un settore che di fronte a una crisi non vede diminuire le proprie vendite, i propri consumi. C'è forse verso i cosmetici quasi il tentativo, qualche psicologo addirittura ha detto che è una reazione di fronte alla crisi, quella di pensare di più all'apparire e quindi anche a cercare dei cosmetici una consolazione in un certo senso. Però ecco, restando al livello industriale, al livello di consumi, come sta andando il settore dei cosmetici? Ma dunque, il settore dei cosmetici continua dopo diciamo tantissimi anni con crescite anche vicino alle due cifre a crescere. Naturalmente ci sono aree che soffrono settore, perché se pensiamo semplicemente all'area della coiffure, dei capelli, quindi diciamo in modo più volgare, i parrucchieri, chiamiamoli così, o tutti i settori professionali, questi risentono di più anche per quello che riguarda la vendita, ma perché ovviamente l'artigiano di questo tipo ha subito una contrazione importante di quello che è l'utilizzo del suo servizio. Mentre le erboristerie sono in grande crescita, le farmacie continuano ad essere in crescita, le profumerie tipicamente hanno qualche problema in più. Però io mi riaggancerei a quanto lei diceva sul cosmetico. Vede, il cosmetico non è visto esclusivamente come un genere, diciamo così, consolatorio. Oggi il ruolo del cosmetico è cambiato tantissimo, ma ormai non è Uniti, anche se il consumo negli Stati Uniti per esempio è più basso mediamente di quello europeo, che ci dimostrano e continuano a dimostrarci la, diciamo così, la irrinunciabilità di questo genere di consumo. Perché? Perché le persone non è che si consolino, vede lei quando usa un cosmetico e pensi che un uomo ne usa almeno 7, e poi potremmo disquisire che un dentifricio è un cosmetico, ricordiamoci che un sapone è un cosmetico, quindi se ne usa almeno 7. Diciamo che la persona che pensa di non usare, cioè io non uso cosmetici, ne usa 7. E diventa un consumo irrinunciabile perché le persone vogliono stare un pochino bene, o cercare di stare bene con loro stessi. Quando noi stiamo bene con noi stessi, questo è leggermente orientale, ecco, forse meno occidentale, poi ci accorgiamo di riuscire a stare meglio anche con gli altri. E in questo senso probabilmente c'è una lenta, graduale riscoperta di quello che è l'utilizzo del cosmetico. Quindi il ruolo sociale che il cosmetico sta svolgendo è questo, lo si vede in tutto il mondo, non lo si vede soltanto ecco in Italia. È una ricerca forse di qualità della vita con dei prodotti che non sono certo impegnativi dal punto di vista economico. Ma sa, il cosmetico ci permette, parliamo del make-up, una persona si disegna, nel senso che disegna se stesso, perdonatemi il termine, nel senso che cerca di diventare quello che vorrebbe essere, anche se non lo è, per alcuni aspetti, oppure comunque come gli piace apparire. Questo aspetto è molto importante, perché ci permette alla fine di correggere piccole imperfezioni, di essere un po' più sicuri con noi stessi, e certamente in un momento ulteriormente di crisi come questo, insomma, il cosmetico che mantiene fasce di prezzi per tutti, massima accessibilità, è certamente un tipo di prodotto a cui non si rinuncia, lo si compra insieme all'insalata. Io credo che oggi il vero problema, seguendo il vostro discorso, oltre che certamente a confermare questa ciclicità, ma non è solo una ciclicità, vi devo dire che continua a crescere tantissimo, sta superando mercati storicamente importantissimi, parliamo di calzature, parliamo di vini, parliamo di cose italiane, pochi sanno che l'Italia esporta 3 miliardi, che non sono pochi, di cosmetici, siamo i più grandi produttori al mondo di make up. Ecco, questo è importante sottolineare, l'Italia non è solo un mercato per i cosmetici, ha un'industria che è tra le principali, tra le industrie manifatturiere proprio. Esatto, cioè noi abbiamo questa industria che pochi conoscono, pensate che il 65% circa del make up che vedete in giro è prodotto in Italia, e questo è nel mondo, sto parlando. Quindi, sì. E direi è un fatto importantissimo. E poi un altro aspetto che, ecco, proprio perché la trasmissione economica ci si può addentrare probabilmente un pochino di più, 1 miliardo noi importiamo di bilancia commerciale positiva, e se ci pensiamo 1 miliardo non è poco, vista la situazione comunque generale italiana, da un settore come il nostro che è di circa 10 miliardi, per dare i numeri in grandezza. Ma mi piaceva di più l'aspetto psicologico, perché i numeri li do spesso, perdonami la battuta, l'aspetto psicologico secondo me è importante, cioè bisogna tornare a capire che le persone hanno bisogno di una serie di rassicurazioni in un momento in cui c'è una crisi secondo me senza precedenti, perché se guardiamo dall'inizio del secolo le crisi che sono accadute, il food non è diminuito, cioè l'alimentare ha sempre mantenuto una crescita, magari riduzioni del PIL o le riduzioni che ci sono state comunque nei consumi. Vedere oggi una serie di contrazioni in questi settori leggermente non poco preoccupa, perché fa pensare proprio a una differente predisposizione delle persone verso questo genere di acquisti, e parlando in particolar modo del food, a me personalmente un po' preoccupa. Ecco, grazie Presidente dell'Unipo Fabio Rossello, se può resti con noi. Io volevo chiedere ad Andrea Baracco, buongiorno Baracco. Buongiorno a tutti. Vicepresidente di Asso Low Cost, che è un osservatorio anche sul mercato, soprattutto sotto il profilo del low cost, che non è solo quello delle compagnie aeree, anche se fa immediatamente venire in mente l'immagine appunto della compagnia aerea a basso prezzo. L'Asso Low Cost, ecco, in due parole che cos'è Asso Low Cost, e in altre tre parole, Baracco, quali sono gli elementi che dalle vostre indagini emergono sulla linea di quanto dicevamo prima, cioè questo cambiamento psicologico di tendenza verso i nuovi stili di vita? Beh, a solo costo semplicemente riunisce tutte quelle aziende che hanno un modello di business basato sull'ottimizzazione dei processi produttivi, e quindi alla fine avere un rapporto qualità-prezzo eccellente. Quindi da questo punto di vista questa è la massima semplificazione che possiamo fare per quanto riguarda solo costo. Per quanto riguarda l'osservatorio che noi abbiamo presentato un rapporto, come facciamo ormai da 4 anni, il 18 giugno, dove c'erano una serie di dati molto interessanti, che peraltro sono stati anche presentati da altre ricerche di mercato che vengono oggettivamente fatte, e diciamo che sicuramente c'è un mutato scenario dei consumi che è ormai di tipo duraturo e che abbiamo misurato con una percentuale su questo campione che è rappresentativo delle famiglie italiane del 63,3%. Diciamo che ormai viene considerata questa, come si diceva prima, non tanto una crisi passeggera, ma è invece veramente un cambiamento significativo del mercato. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Vi è una maggior ricerca del miglior rapporto di qualità-prezzo, e qui parliamo il 50,8% degli acquisti oggi viene fatto con questa individuazione molto precisa. E come si diceva anche prima, sono cambiate completamente le scale di priorità nella ricerca degli acquisti. Oggi chiaramente l'acquisto voluttuario, che viene comunque ritenuto voluttuario, per certi aspetti è chiaramente passato in secondo piano. E direi anche, per agganciarmi ai discorsi che sono stati fatti precedentemente, che quello che possiamo vedere è un po' una polarizzazione dei consumi. Quindi da un lato vi è una polarizzazione verso dei consumi estremamente elevati, e dall'altra parte, e quindi diciamo così, un alto di gamma molto molto di lusso, e dall'altra parte invece una ricerca sicuramente di acquisti in un ambito di low cost. Ecco, come questo poi influisce sulla realtà commerciale, sulla realtà appunto con cui abbiamo a che fare per i nostri consumi? Vorrei chiederlo ad Anna Zinola, ma lo farò tra un attimo dopo la pubblicità. 9 in punto. Rieccoci a 9 in punto, bentornati da Gianfranco Fabi. Stavamo parlando appunto degli stili di vita, di come cambiano i consumi, di come di fatto, ci diceva Andrea Baracco, vicepresidente di AssoloCost, stanno cambiando proprio la propensione al consumo e il modo con cui si mette di fronte al tradizionale elemento di scelta di che cosa consumare e come consumare. Allora volevo chiedere ad Anna Zinola, ricordo autrice del libro Nuovi stili di consumo in tempi di crisi, ecco, un capitolo di questo libro è la rinascita delle botteghe, quindi sta cambiando anche, diciamo, il commercio, il modo con cui la realtà commerciale si approccia al cliente. Forse si è parlato molto, e si vedono i grandi centri commerciali, però c'è anche una rinascita delle botteghe, Anna Zinola. Sicuramente sì, devo dire che in Italia le botteghe non sono mai davvero morte. Quello che io racconto nel libro è il modo in cui si sono riattualizzate, cioè sono diventate più vicine agli stili attuali. Faccio un esempio, la latteria era un luogo in cui alcuni anni fa i meno giovani tra di noi andavano, che poi per un certo periodo è scomparsa e che adesso sta tornando in una logica più moderna, quindi con stili anche di layout, di struttura del negozio diversi, ma che ripropone anche i prodotti che erano quelli della latteria di una volta, e quindi si può fare colazione con il caffè latte piuttosto che con pane, burro e marmellata. Questo è un esempio di rinascita di una struttura distributiva del passato, ma ce ne sono molto altre, penso per esempio alle mercerie. Cioè le mercerie, anche quei negozi in cui si riparano le cose, si riparano dei pantaloni magari strappati, e mentre prima si buttavano via. Esatto, lo stesso vale per i negozi che risuolano le scarpe o riparano i tacchi. Sì, è un sintomo forse di una maggiore attenzione verso lo sprecare meno, che è sempre qualcosa di utile, perché lo spreco non è mai qualcosa che sicuramente può aiutare da un punto di vista quantitativo, però sprecare meno è qualcosa che dovremmo avere in fondo di fronte, utilizzare meglio però poi comunque quello che abbiamo, quello che possiamo spendere. Ecco, in questa prospettiva io saluto Luigino Bruni. Buongiorno professor Bruni. Buongiorno a lei. docente di economia all'Università Bicocca, autore del libro Le nuove virtù del mercato nell'era dei beni comuni. Quindi volevo chiedere al professor Budi, c'è anche un cambiamento di valori di fondo, cioè non c'è solo un consumare, ma c'è anche una crescita dell'attenzione verso dei valori che vanno al di là dei consumi, professor Bruni? Certo, c'è già e non ancora, come si dice, nel senso che ci sono dei segnali che anche questa mattina stiamo ascoltando, che dicono dei cambiamenti anche negli stili di vita, di una maggiore attenzione al bene, al prodotto, e questo è sicuramente un fatto. Abbiamo ascoltato le spese dello post, ma su cui sarebbe bene dire qualcos'altro, perché è una spesa molto importante culturalmente. Ecco, la linea è molto disturbata, vediamo magari se riusciamo a richiamarla, avere una linea, perché proprio se ascoltiamo abbastanza male, professor Bruni, ma accennava al low cost, accennava ad altre tematiche di cui sicuramente tratteremo, ma lasciamo parlare un ascoltatore. Ennio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io 4 anni fa sono diventato padre per la prima volta, e parlando con un cliente, perché faccio il commerciale, questi mi ha detto: guarda, c'è un sito online che vende vestiario, tu che c'hai un bambino magari ti può essere utile. Sono andato a vedere, praticamente sono 3 anni e mezzo che io ho acquistato tranquillamente tutto quello che mi serviva senza cambiare stile di vita, risparmiando il 60% su quello che avrei dovuto spendere. Quindi la scoperta dell'outlet è una realtà appunto commerciale che sta crescendo, sono questi centri commerciali che sono diventate delle nuove cattedrali in fondo alle periferie delle grandi città, che attirano molto, e sicuramente in queste occasioni si ha la possibilità di risparmiare, e in un certo senso il risparmio è qualcosa che può andare comunque, si può collegare alla qualità. La domanda è retorica, rivolta ad Andrea Baracco di Assolo Cost. Sicuramente, come dicevo prima, noi, le nostre aziende associate sono delle aziende che fanno dell'ottimizzazione dei processi produttivi la loro chiave vincente sul mercato. Quindi non si tratta di operazioni di dumping sul prezzo, per cui alla fine alle aziende non rimane redditività, non si tratta neanche di partire da materie prime di livello scadente, ma si tratta semplicemente di rivedere completamente il processo produttivo, anche il processo della distribuzione, e da questo punto di vista si ottengono quelle economie che permettono di dare al consumatore un vantaggio in termini di prezzo e di essere quindi competitivi sul mercato. Ecco, sotto questo profilo, Anna Zinola, io volevo chiedere appunto: il prezzo è comunque ancora qualcosa che è determinante nella scelta dell'acquisto? Ovviamente parliamo in termini generali, ci sono pochi ricchi per cui il prezzo non fa nessun problema, e ci sono molti poveri per cui il prezzo è una barriera invalicabile, ma il fattore prezzo è un elemento che pesa in maniera determinante nella scelta, o ci sono altri fattori che nella scelta dei consumi indubbiamente pesano in maniera altrettanto forte? Anna Zinola. Beh, sicuramente il prezzo resta un elemento importante della valutazione. Dipende però anche un po' da quanto si investe emotivamente su quel bene, cioè su un prodotto su cui si investe emotivamente di più si vada un po' meno al prezzo, e viceversa. E questo vale anche nella spesa quotidiana, quindi al supermercato magari spendo un po' di più e vado meno al prezzo su alcune categorie di prodotto, e invece sono più attento al prezzo su altre. E questo varia per ognuno di noi in rapporto al tipo di relazione che si ha con quell'area merceologica. Ecco, ma siamo ancora una società dei consumi, oppure possiamo definirci una società in cui il consumo è uno strumento, ma abbiamo anche altri valori di fronte, Anna Zinola? Dio, domandona. sicuramente siamo ancora una società del consumo, ma nell'approccio al consumo sono entrati anche altri valori. E allora rivolgo la stessa domanda a Giancarlo Rovati, se è ancora con noi. Rovati, professore di sociologia, docente di sociologia all'Università Cattolica. Sì, ci sono. Siamo, direi, ancora una società dei consumi, anche perché non dobbiamo dimenticare che le nostre società hanno una capacità di produzione molto elevata, e il consumo è fondamentale per smaltire quello che altrimenti diventerebbe una eccedenza destinata alla distruzione, con danno evidentemente non solo per le imprese, ma anche per l'intero sistema. Bene, siamo una società dei consumi, però il consumo è anche sottoposto a una serie di valutazioni e dunque, come diceva Anna Zinola prima, dipende molto da che cosa consideriamo più importante. Per esempio, oggi si è molto più disponibili a fare sacrifici su spese alimentari per poter comprare una nuova versione del telefono cellulare e questo è dà un'idea del rapporto tra valori e poi scelte di consumo. Segnalerei comunque che già nel Settecento il buon Adam Smith aveva segnalato che per alcune categorie sociali possedere una camicia di seta era fondamentale per il decoro della loro professione, si riferiva agli impiegati all'epoca. Noi dovremmo applicare questo criterio anche nel contesto attuale, vale a dire quali sono i prodotti che potrebbero apparire superflui ma di cui invece non possiamo fare a meno. Sicuramente le tecnologie della comunicazione rientrano in questa prospettiva. Sì, anche perché molto spesso compriamo un telefonino e poi impariamo ad usarlo per il 10-15% delle sue potenzialità. E molto spesso appunto si parla di società dei consumi, ma ci si riferisce alla società dello spreco. Il consumo è fondamentale, senza consumi non ci sarebbe vita, perché poi consumiamo anche per i nostri beni essenziali, ma non ci sarebbe industria. La catena dell'economia è fatta da consumi, da produzione, da lavoro, da redditi, sono tutti collegati, quindi il consumo non è certamente da demonizzare e lo spreco qualcosa invece qualche elemento critico certamente può averlo, e una società che riesce a mettere appunto in equilibrio tutte le proprie risorse è certamente una società che può anche crescere e può crescere anche consumando meglio, è certamente qualcosa di positivo. Non so se abbiamo ripristinato il collegamento con Luigino Bruni, professor Bruni? Sì, ci sono, grazie. Rivolgo anche a lei la domanda: se questa società appunto può ancora definirsi una società di consumi, oppure se stanno entrando anche valori, lei nel suo libro parla di virtù del mercato, quindi di un mercato come qualcosa di positivo, però in un'era di beni comuni in cui non c'è solo il consumo individuale. Sì, questo è un tema enorme sul tema dei consumi, cioè nel senso che sempre di più si sta tornando in qualche modo a un'idea di consumo legata ai beni comuni, cioè l'idea del consumo del bene privato come un bene quindi escludibile, rivale con i beni degli altri, è un fenomeno tutto sommato recente. L'umanità ha sempre consumato, ma spesso consumava e utilizzava dei beni posseduti e condivisi con altri. Oggi con l'ambiente, ma anche il traffico, la vita nei condomini, l'acqua, l'energia, tutti questi beni nuovi, cruciali, che sono beni comuni, cioè condivisi e consumati insieme agli altri, tutta l'etica del consumo deve assolutamente cambiare. Noi dobbiamo ricordarci che oggi abbiamo dei messaggi in qualche modo contraddittori. Se lei pensa che si parla in questo tempo giustamente di spending review, di sobrietà, di riduzione degli sprechi da una parte, e dall'altra si dice che dobbiamo consumare di più per rilanciare l'economia, alle stesse persone ci si rivolge con messaggi che non sono facilmente conciliabili nelle famiglie. Quindi dobbiamo rimettere al centro il lavoro, si dice dall'altra parte, giustamente, che io stesso lo sottolineo questo aspetto, che il lavoro va rimesso al centro del dibattito pubblico, politico, meno della finanza, degli spread e forse anche di altre dimensioni. Quindi si dà un messaggio da una parte di consumare di più, dall'altra di risparmiare e sprecare di meno. Io penso che una chiave fondamentale per questo è il tema del consumare insieme e diversamente, cioè il consumo non è solo faccenda individualistica e privata davanti al televisore o nel supermercato da solo, il consumo è anche momento di condivisione, di festa, di usare i beni nei rapporti, insieme ai beni relazionali. Io credo ci sia un bisogno molto grande oggi di consumare anche beni cosiddetti di esperienza, dicono gli inglesi gli experience goods. Cosa vuol dire? Che la gente mentre consuma vuole di più dell'aspetto merceologico, vuole fare un'esperienza. Pensiamo a tutto il tema del turismo, dei beni culturali, dell'arte. Sono dei beni di esperienza che io mentre faccio un'esperienza consumo un bene. Quindi quando acquisto un weekend in un agriturismo, io non sto semplicemente consumando un prodotto, sto facendo un'esperienza di consumo. E quindi quando si parla di esperienza entrano in gioco i rapporti, entrano in gioco i simboli, perché il consumo è un luogo straordinario di beni simbolici, dove la gente vuole qualcosa di più rispetto al prodotto, vuole un'esperienza, un rapporto, una dimensione che va oltre l'aspetto merceologico. Quindi se noi oggi riponiamo al centro il tema del bene comune e dei beni comuni, ci accorgiamo che il consumo è importante, ma sono più importanti le relazioni interpersonali. Ecco, indubbiamente questo è vero, però è altrettanto vero che sul fronte degli sprechi, lei lo ha accennato, si parla di spending review, una delle realtà che deve aiutare a sprecare di meno è proprio lo Stato, la spesa pubblica va razionalizzata, non bisogna pensare che i beni comuni siano necessariamente beni statali, che il bene pubblico sia un bene statale, bisogna avere forse la coscienza che il bene pubblico è il bene di tutti, che è l'interesse di tutti, non necessariamente e molto spesso anche non è di proprietà dello Stato e lo Stato non deve intermediare a tutti i costi il bene pubblico. Il bene pubblico è appunto un bene comune e se non c'è l'intermediazione dello Stato e nasce dalla capacità, dalla volontà, dalle possibilità operative dei singoli, forse è tanto meglio e forse si ha una società più solidale e più efficiente. Quindi anche su questo fronte dovremmo forse riflettere, ma per riflettere lasciamo un attimo lo spazio alle informazioni sul traffico. 9 in punto. Abbiamo sentito, ecco, siamo in un periodo 9 agosto, il traffico non è nei momenti più intensi, ma uno dei problemi è anche quello appunto dell'automobile, del traffico, uno dei cali maggiori si hanno avuti nelle vendite di automobili, indubbiamente anche perché si tenta in questo periodo di rimandare l'acquisto e si tende appunto in beni di sostituzione, come di fatto è l'automobile, come tanti altri beni che noi abbiamo, dai frigoriferi ai mobili, se rimandiamo la sostituzione di quelli che abbiamo, ovviamente il consumo di questi beni, il mercato di questi beni rallenta e questo indubbiamente è un ulteriore elemento di crisi. Ma ecco, per esempio l'automobile, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, come sta cambiando l'atteggiamento dei consumatori, dei cittadini, di chi guida l'automobile verso l'automobile? Sicuramente la si usa meno e questo è un fenomeno sicuramente indotto dall'aumento dei prezzi della benzina, ma è stato indotto anche direttamente dalla politica, perché con l'aumento delle tasse sulla benzina il governo ha di fatto prodotto questo risultato, che è stato un risultato negativo dal punto di vista degli incassi fiscali, perché evidentemente se il calo dei consumi è stato come si calcola dell'11-12% da quando la tassa è stata introdotta, è evidente che il gettito si è ridotto in misura sufficiente a quasi annullare l'aumento dell'imposizione fiscale. La politica, e questo è interessante da analizzare, ha quindi anche la politica ha influssi diretti sul consumo di un paese. La politica può avere influssi di questo genere, che sono contraddittori, come quello della benzina in Italia, ma può avere influssi anche più intelligenti e più utili. Per esempio in Francia, a Parigi, il comune ha messo a disposizione di tutte le famiglie un kit salva denaro e ambiente, con il quale ha regalato a ogni famiglia parigina un misuratore di watt, di potenza dell'energia elettrica, quindi gli ha dato a ognuno la possibilità di calcolare quanto consuma effettivamente accendendo una lampadina, un misuratore di portata dell'acqua, quindi ognuno ha la capacità di valutare quanta acqua esce da un certo rubinetto, e contemporaneamente ha regalato una lampadina a basso consumo e uno di quei strumenti che riducono la portata dell'acqua. Quindi ogni francese, ogni parigino in questo caso, è stato messo in grado di capire che comprando una lampadina a basso costo, a basso consumo e applicando questo aggeggetto da pochissimi centesimi al suo rubinetto può risparmiare sensibilmente. Senza modificare il suo stile di vita, senza modificare il fatto di usare appunto l'elettricità e l'acqua come è normale che sia. Ecco, ci avviamo verso la conclusione, forse è stata una discussione un po' con tanti elementi su questa nostra società di consumo, una riflessione appunto su una società in cui ci sono molte cose collegate, in cui ci sono anche molte spinte diverse da una parte e dall'altra a consumare di più, ma sicuramente a consumare meglio. Ci sono difficoltà economiche presenti e all'orizzonte che condizionano le scelte di consumo, però ecco, quello che è importante è avere una, in fondo, una maturità di scelta, una capacità di essere in fondo responsabili di fronte alle scelte, pensando non solo al proprio interesse personale ma anche all'interesse, possiamo dire, collettivo, una responsabilità sociale delle persone, che non è certamente facile, perché indubbiamente ognuno, lo diceva già Adam Smith, si muove secondo il proprio interesse personale, ma non è automatico che questo interesse personale divenga un interesse collettivo. Un ultimo ascoltatore, Paolo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo riportare al tema del controllo dei consumi per le famiglie, una cosa che è accaduta adesso, si è sbloccata in questo periodo qui, è la richiesta dell'obbligo, diciamo, al registro storico per assicurare un mezzo che ha più di 20 anni. Cioè, uno magari è disposto a rinunciare ai comfort di una macchina nuova e anche ai vincoli, ad esempio non può accedere a zone verdi, anelli verdi e tutto il resto, e pur di pagare, ecco, 100-120 euro l'anno massimo di RC auto, quindi risparmiare notevolmente sulla macchina. Però ormai adesso le assicurazioni giustamente non vanno incontro al consumatore, perché ora si trovano, diciamo, obbligate a chiedere l'iscrizione al registro, quindi altri 100 e passa euro da spendere l'anno per rinnovare l'iscrizione al registro, e di conseguenza abbassando quella soglia di convenienza che il consumatore, diciamo, affronta a discapito di comfort, di sicurezza e anche di consumi. La ringrazio. Io giro subito la domanda ad Andrea Baracco: esiste il low cost anche nelle assicurazioni? Sicuramente sì, diciamo che tutte le, o quasi tutte le società assicurative, per quanto riguarda il settore automobilistico, delle assicurazioni online sono dei nostri associati, quindi direi che oggi, tra l'altro, internet è un vettore assolutamente fondamentale nel poter permettere proprio la migliore scelta possibile, perché permette di fare dei confronti in maniera velocissima e immediata fra varie opportunità che ci possono essere sul mercato. Quindi da questo punto di vista devo dire che sicuramente internet è stato uno dei grandi facilitatori del fatto che ci possano essere anche delle aziende che operano nel low cost, perché ad esempio i costi di intermediazione sono stati decisamente abbattuti. Anna Zinola, il fattore internet nei consumi comincia a essere qualcosa di rilevante? Sì, assolutamente sì, su due livelli. Il primo livello è un livello di informazione, nel senso che oggi sempre di più, prima di acquistare, il consumatore va a informarsi su internet, non solo paragona i prezzi o le performance dei prodotti, ma sente anche il punto di vista degli altri. E questo è molto importante, perché è vero che noi abbiamo sempre chiesto il punto di vista di amici o parenti prima di fare un acquisto, ma in questo modo abbiamo una platea sterminata. E il secondo livello in cui entra internet è proprio l'acquisto, cioè ormai la rete è diventata un canale distributivo a tutti gli effetti, esattamente come canali distributivi offline. Grazie, io vorrei chiedere una considerazione conclusiva anche un po' sul fronte di questi atteggiamenti, di questi nuovi comportamenti dei consumatori. Fabio Rossello, presidente di Unipro, associazione delle industrie cosmetiche, come vede in questa fase anche le prospettive per i prossimi mesi, per i prossimi anni sul fronte dell'industria italiana, di cui appunto, come dicevamo, l'industria cosmetica è una parte importante? Ma io credo che l'industria stia aspettando delle risposte forti, comunque, a livello di quello che può essere, che possono essere le istituzioni. Dobbiamo comunque riagganciarci a un fatto: siamo uno Stato di diritto, facciamo parte comunque di una comunità europea, dobbiamo significativamente insomma arrivare ad un dunque da questo punto di vista. L'industria direi le solite cose: ci aspettiamo defiscalizzazioni, ci aspettiamo reinvestimenti, possibilità di reinvestire sulla ricerca, ma direi quello che ho detto troppe volte. Quello che credo in questo momento, c'è bisogno di un segnale forte da parte o delle nostre istituzioni, oppure facciamo lavorare bene in questa Europa, ma facciamo diciamo, la nascere, crescere, perché possono rinascere effettivamente i consumi che, ricordiamoci, derivano sicuramente non dai risparmi, ma dall'industria che trasforma, perché i risparmi non ci permettono sostanzialmente di generare, di trasformare nulla e di crescere, quindi da questo punto di vista. Io resto ottimista, se no non farei l'imprenditore. Il nostro è un settore tra i pochi probabilmente che è in traino, e il messaggio deve essere per tutti quello di guardiamoci fortemente quando andremo a votare, quando dovremo cercare di portare e di dare un apporto nella scelta delle persone che ci guidano, perché è fondamentale questo, e credo che da questo poi nascerà tutto il resto. Devo restare ottimista sotto questo, anzi lo sono assolutamente ottimista da questo punto di vista, ripeto, partendo da un settore che comunque per alcuni aspetti è privilegiato, ma non a caso è privilegiato, perché le persone sentono questo bisogno, hanno questo bisogno di stare un pochino bene con se stessi, specialmente in un momento peraltro come questo, ma si è visto comunque poi in altri momenti, poi vanno nel lusso magari più sfrenato, quindi vanno di più altri generi di prodotti, però certamente... Ecco, complessivamente un messaggio di ottimismo basato anche sulla realtà concreta di una realtà appunto imprenditoriale italiana che ha saputo, sa muoversi, sa affrontare con soluzioni nuove anche problemi nuovi. Si tratta forse di cercare di togliere alcuni ostacoli che ci sono anche alla prospettiva appunto di chi vuole innovare, di chi vuole cercare nuove formule di prodotti, nuove formule di successo sul mercato italiano, su quello internazionale. Un'ultima battuta molto breve a Giancarlo Rovati: elementi di ottimismo comunque dobbiamo averli? Dobbiamo averli per non rimanere prigionieri del giorno per giorno, ma anche perché dobbiamo confrontarci con generazioni che da noi si aspettano un futuro. Non trascurerei il fatto che sullo sviluppo incide molto l'avere qualche generazione, qualche figlio, qualche nipote a cui pensare, e questa solidarietà tra le generazioni è anche un fattore che ci spinge a consumi più responsabili e anche a trovare le direzioni più utili per consumare e rafforzare nello stesso tempo i legami sociali. È stato detto da Luigino Bruni questa importanza del legame sociale. Bene, c'è anche un legame sociale che va oltre quello della famiglia, ed è quello, per esempio, tra il settore profit e il settore non profit. Su questo credo che ci possa essere una collaborazione molto importante proprio a riguardo della sostenibilità della educazione al consumo. Questo tema dell'educazione credo sia un'altra questione molto importante. Un'ultima considerazione: chi come sottoscritto ricorda le crisi energetiche del 73 e del 79, ricorderà anche che dopo grandi periodi di crisi si imparano delle cose che restano nel tempo. Indubbiamente la crisi è anche un'opportunità, dobbiamo fermarci qui, pensare che la crisi è appunto, dobbiamo cogliere da questa crisi, da queste difficoltà, che è l'opportunità di cambiare forse un po' il nostro atteggiamento, pensando appunto al fatto che abbiamo delle generazioni a cui dobbiamo qualcosa, nonostante tutto, le nostre generazioni, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie ad Anna Zinola, Luigino Bruni, Giancarlo Rovati, Maurizio Tortorella, Andrea Baracchi. Radio 24, la passione si sente.